Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London. Traduzione di Cecilia Scerbanenko. Martin ripensò alla casa che aveva appena lasciato e vide prima i quadri e poi lei che lo guardava con irresistibile dolcezza mentre gli dava la mano alla fine della serata. Si dimenticò di dove fosse e anche dell'esistenza di Bernard Higginbotham fino a quando quel gentiluomo domandò: «Visto un fantasma?» Martin ritornò in sé e guardò negli occhi rotondi, sprezzanti, malvagi e vigliacchi e allora vide, come su uno schermo, quegli stessi occhi quando il loro proprietario concludeva qualche affare nel negozio di sotto. Occhi servili, compiaciuti, untuosi e adulatori. «Sì», rispose Martin, «ho visto un fantasma. Buonanotte». «Buonanotte, Gertrude». Lasciando la stanza inciampò in un vecchio tappeto sfilacciato. «Non sbattere la porta», lo avvisò il signor Higginbotham. Martin sentì il sangue ribollire nelle vene, ma si controllò e chiuse lentamente la porta dietro di sé. Il signor Higginbotham guardò con esultanza la moglie. «Ha bevuto», proclamò in un sussurro rauco. «Te l'avevo detto». Lei scosse la testa con rassegnazione. «Gli occhi erano proprio lucidi», ammise lei. «E non aveva il colletto». «Lo aveva quando è uscito». «Ma forse ha bevuto solo un paio di bicchieri». «Non si reggeva in piedi», affermò suo marito. «L'ho visto io. Non gli è riuscito di attraversare la stanza senza inciampare». «Hai sentito anche tu che quasi cadeva nell'ingresso. Forse è finito sopra il carrettino di Alice», disse. «Non poteva vederlo con il buio». Il tono di voce e la rabbia del signor Higginbotham aumentarono. Per tutto il giorno il negozio doveva nascondere la sua vera personalità, riservando per la sera, per la sua famiglia, il privilegio di essere se stesso. «Ti dico che quel tuo prezioso fratello era ubriaco». La sua voce era fredda, tagliente, e non ammetteva repliche. Le labbra pronunciavano ogni parola con la stessa forza della pressa di una macchina stampatrice. Sua moglie sospirò e rimase in silenzio. Era una donna grossa e robusta, sempre trasandata nel vestire, sempre stanca a causa del peso del suo corpo, del lavoro e del marito. «L'ha preso da tuo padre, te lo dico io», continuò il signor Higginbotham con tono d'accusa, «e schiatterà come lui in una fogna, lo sai anche tu». Gertrude annuì, sospirò e continuò a cucire. Avevano entrambi convenuto che Martin era tornato a casa ubriaco. Le loro anime non erano in grado di riconoscere la bellezza, altrimenti avrebbero capito che quegli occhi lucidi, quella faccia arrossata, erano i segni che appaiono quando la giovinezza incontra per la prima volta l'amore. «Dà proprio un bell'esempio ai bambini», soffiò all'improvviso il signor Higginbotham nel silenzio causato dalla moglie. Le portava rancore per questi silenzi e a volte avrebbe desiderato che lei gli si opponesse con maggiore determinazione. «Se lo fa di nuovo, lo butto fuori, hai capito? Non voglio che faccia tutto quello che gli pare e piace. Traviare dei bambini innocenti andando in giro ubriaco». Al signor Higginbotham piaceva quella parola nuova nel suo vocabolario, raggranellata di recente dalle colonne di un quotidiano. «Ecco che cosa fa. Travisce. Non ci sono altre parole per dirlo». Sua moglie sospirò di nuovo, scuotendo la testa addolorata, e poi continuò a cucire mentre il signor Higginbotham riprendeva il suo giornale. «Ha pagato l'affitto della settimana scorsa?» le chiese all'improvviso, al di sopra del giornale. Lei annuì. «Ha ancora un po' di soldi», aggiunse. «E quando riprende il mare?» «Quando avrà finito i soldi, credo», rispose. «Ieri è stato a San Francisco a cercare una nave. Ma ha ancora dei soldi e lui è un po' difficile sugli imbarchi che accetta». «Come se uno che a malapena sa ramazzare i punti potesse darsi delle arie», ringhiò il signor Higginbotham. «Lui! Difficile!» «Mi ha detto qualcosa di una goletta che si sta preparando per andare alla ricerca di tesori da qualche parte oltreoceano, che si imbarcava su quella se i soldi gli duravano abbastanza. Se volesse sistemarsi davvero, gli darei io un lavoro, gli farei guidare il carro, disse il marito, ma senza alcuna traccia di benevolenza nella voce. Tom ha lasciato. La moglie allarmata lo guardò interrogativamente. Se n'è andato stasera. Va a lavorare da carretter. Lo pagano più di quanto gli possa dare io. Te lo avevo detto che se ne andava, gridò lei. Valeva più di quanto gli davi. Ascolta, vecchia, proclamò Higginbotham. Ti ho detto almeno 1000 volte di tenere il naso fuori dagli affari. E non te lo ripeterò di nuovo. Non me ne importa, singhiozzò lei. Tom era un bravo ragazzo. Il marito le lanciò uno sguardo di sfida. Lei lo aveva provocato inutilmente. Se quel tuo amato fratello varrebbe qualcosa, potrebbe prendere lui il carro, le ringhiò contro. Ha sempre pagato l'affitto, replicò lei. È mio fratello, e se non ti deve del denaro, non hai il diritto di saltargli sempre addosso. Anche se siamo sposati da 7 anni, io ho ancora dei sentimenti. Gli hai detto che dovrà pagare il gas se continua a leggere a letto? Le domandò. La signora Higginbotham non rispose. Il tentativo di rivolta era finito. Il suo spirito si ripiegò, appassito, nel corpo stanco. Suo marito aveva trionfato. Era riuscito a sconfiggerla. La trafisse con un'occhiata vendicativa, godendo nel sentirla tirare su col naso. Era sempre felice quando riusciva a farla tacere. Allora lei si lasciava zittire facilmente, anche se non era stato così nei primi anni di matrimonio, prima che la nascita dei bambini e le continue critiche del marito prosciugassero le sue energie. «Bene, glielo dirai domani», le disse. «E prima che me lo dimentichi, domani farei meglio a chiamare Marian, perché badi ai bambini. Visto che Tom se n'è andato, toccherà a me uscire con il carro e tu dovrai stare dietro al negozio. Puoi esserne sicura». «Ma domani è giorno di bucato», obiettò lei debolmente. «Allora alzati presto e fallo prima». «Me ne andrò solo dopo le 10». Si rimise a leggere, facendo frusciare il giornale, con malignità. Martin Eden, mentre il sangue gli ribolliva ancora per l'incontro con il cognato, avanzò a tastoni lungo il buio atrio del retro ed entrò nella sua stanza. Un buchetto dove c'era posto per un letto, un lavabo e una sedia. Il signor Higginbotham era troppo avaro per pagare una domestica quando aveva una moglie e quando la stanza della servitù gli permetteva di prendere 2 inquilini invece di uno solo. Martin, dopo aver poggiato i libri di Swinburne e di Browning sulla sedia, si tolse il giaccone e si sedette sul letto. Alcune molle asmatiche accolsero cigolando il peso del suo corpo, ma lui non vi fece caso. Mentre si toglieva le scarpe, fu come ipnotizzato dal muro intonacato di fronte, percorso qua e là da lunghe strisce marroni e sporche, dove la pioggia era filtrata dal tetto. Su questo sudicio fondale scorrevano e ardevano delle visioni. Martin si dimenticò delle scarpe e rimase a fissare a lungo il muro, fino a che le sue labbra si aprirono e mormorarono. Ruth! Ruth! Non aveva mai pensato che un semplice suono potesse essere così bello. Risuonava delizioso nelle sue orecchie e lui lo ripeté fino a inebriarsene. Ruth! Ruth! Era un talismano, una parola magica che permetteva di fare incantesimi. Ogni volta che la pronunciava, vedeva la faccia di lei brillargli davanti, diffondendo su quella parete sporca un bagliore dorato che non solo illuminava il muro, ma si protendeva verso l'infinito. E attraverso quelle profondità dorate, l'anima di Martin andava alla ricerca di quella di lei, mentre le migliori qualità che erano in lui sgorgavano in splendide onde. Il solo pensiero di lei lo rendeva più nobile e più puro, lo rendeva migliore e lo spingeva a desiderare di essere migliore. Era un'esperienza nuova per lui. Nessuna delle donne che aveva conosciuto lo aveva mai reso migliore, anzi, avevano sempre avuto l'effetto contrario, di renderlo bestiale. Martin non sapeva che molte di quelle donne avevano cercato di fare del loro meglio, per quanto poco fosse. Non era mai stato consapevole delle sue qualità e non poteva sapere di possedere in sé ciò che fa nascere l'amore nelle donne, quella cosa che le spingeva a cercare di impossessarsi della sua giovinezza. Loro si erano spesso preoccupate per lui, ma lui non si era mai preoccupato di loro. Non avrebbe mai creduto che alcune di quelle donne fossero diventate migliori proprio perché lo avevano conosciuto. Ma se fino a quel momento aveva sempre vissuto con sublime noncuranza, ora gli sembrava che le mani con le quali quelle donne avevano cercato di afferrarlo e toccarlo fossero state sudice. Era ingiusto, sia con loro, sia con se stesso, ma lui che per la prima volta era consapevole di sé, non era in grado di giudicare e bruciava di vergogna, fissando l'immagine della sua infamia. Si alzò di colpo e cercò di guardarsi nello specchio sporco appeso sopra il lavabo. Lo pulì con un asciugamano e si guardò di nuovo, a lungo e con attenzione. Era la prima volta che si vedeva davvero. Aveva occhi fatti per guardare, ma fino a quel momento erano stati troppo pieni del panorama del mondo e lui era sempre stato troppo occupato a guardare quel panorama incessantemente mutevole per osservare se stesso. Vedeva la testa e la faccia di un ragazzo sui 20 anni, ma non sapeva come giudicarsi. Non era abituato a simili valutazioni. Sopra una fronte squadrata c'era una massa disordinata di capelli castani, dal colore delle nocciole, con un'onda e dei riccioli appena accennati, che facevano impazzire le donne, che facevano fremere le loro mani dal desiderio di accarezzarli e di scompigliarli, passandovi attraverso le dita. Ma lui passò oltre, ritenendoli privi di merito ai suoi occhi, e si soffermò invece a lungo e pensosamente sulla fronte, alta, squadrata, lottando per penetrarvi e per scoprire la qualità di ciò che conteneva. Che tipo di cervello c'era lì dentro, si chiedeva con insistenza, e che cosa era capace di fare? L'avrebbe portato lontano? L'avrebbe portato da lei? Si domandò se ci fosse un'anima in quegli occhi grigio acciaio che spesso diventavano blu e che erano stati rinforzati dall'aria salmastra del mare inondato dal sole. Si chiese anche come i suoi occhi avevano guardato Ruth, cercò di fingersi lei mentre guardava nei propri occhi, ma non gli riuscì. Era facile per lui mettersi nei panni, nella mente di un altro uomo, ma doveva essere qualcuno del quale conosceva il modo di vivere. Lui non conosceva il modo in cui Ruth viveva. Lei era meraviglia e mistero, e come poteva lui indovinarne anche un pensiero solo? Bene, concluse. Erano comunque degli occhi onesti, nei quali non vi era né piccolezza né meschinità. Si meravigliò per l'intensa abbronzatura della sua faccia. Non credeva di essere così scuro. Arrotolò una manica e confrontò l'interno del braccio con la faccia. Ah, sì, sì, dopo tutto era ancora un uomo bianco, ma persino le braccia erano abbronzate. Allora ruotò il braccio e spinse indietro i bicipiti con l'altra mano e guardò la pelle che lì era stata appena toccata dal sole. Era molto chiara. Rise della sua faccia abbronzata riflessa nello specchio, pensando che una volta era stata bianca come la pelle dell'interno del braccio. Non avrebbe mai immaginato che nel mondo solo pochi pallidi spiriti di donna potevano vantarsi di avere una pelle più chiara e più morbida della sua, là dove era sfuggita alla devastazione del sole. Bocca avrebbe potuto essere simile a quella di un cherubino con le labbra piene e sensuali se non avesse avuto il vizio di contrarle sotto tensione. A volte le contraeva con tale forza che la bocca gli diventava dura, severa e persino ascetica. Martin aveva le labbra di un combattente e di un amante, labbra che potevano gustare la dolcezza della vita con piacere e potevano mettere da parte quella dolcezza per dominare la vita. Aveva il mento e la mascella forti, appena squadrati, e questo accenno di aggressività aiutava le labbra a dominare la vita. La forza bilanciava la sensualità e aveva su quest'ultima un effetto tonico, perché lo spingeva ad amare solo la bellezza sana, impedendogli di infiammarsi per emozioni corrotte. Tra le labbra aveva dei denti che non avevano mai conosciuto o avuto bisogno delle cure di un dentista. Li guardò e decise che erano bianchi, forti e regolari. Ma mentre li guardava, un pensiero lo turbò. Da qualche parte, nei recessi della sua mente, c'era un vago ricordo, come l'impressione che alcune persone si lavassero i denti tutti i giorni. Erano le persone che stavano in alto, le persone della classe di Ruth. Anche lei probabilmente si lavava i denti tutti i giorni. Cosa avrebbe pensato se avesse saputo che lui non si era mai lavato i denti in vita sua? Decise di comprarsi uno spazzolino e di abituarsi a usarlo. Avrebbe iniziato subito, domani stesso. Non poteva sperare di conquistarla solo con delle grandi imprese. Doveva modificare anche le sue abitudini personali, compresa la pulizia dei denti e le camicie col colletto, anche se un colletto inabitato gli sembrava una limitazione della sua libertà. Martin sollevò una mano, sfregando la punta del pollice sopra il palmo calloso. Lo sporco faceva ormai parte della carne, e nessuna spazzola avrebbe potuto toglierlo. Com'era diverso il palmo della mano di Ruth. Il ricordo gli provocò dei brividi deliziosi. Era come un petalo di rosa, pensò, fresco e soffice come un fiocco di neve. Non aveva mai pensato che la mano di una donna potesse essere così dolce e soffice. Si sorprese a immaginare come sarebbe stato meraviglioso essere accarezzato da quella mano, e subito arrossì, sentendosi colpevole. Come poteva pensare una cosa così volgare di lei? In un certo senso sembrava quasi mettere in dubbio la nobile spiritualità. Lei era un pallido, esile spirito, ben al di sopra di ogni corporeità. Ma ciononostante, Martin continuò a pensare alla morbidezza di quella mano. Era abituato alla durezza e alle callosità delle mani delle donne che lavoravano nelle fabbriche o altrove, e sapeva perché le loro mani erano così ruvide. Ma quella mano era soffice perché non aveva mai lavorato. L'abisso che lo separava da Ruth si spalancò di fronte all'incredibile immagine di una persona che non doveva lavorare per vivere. Vide improvvisamente l'aristocrazia di coloro che non devono consumarsi nella fatica. E sul muro davanti a lui torreggiò una figura in ottone, arrogante e potente. Lui invece aveva lavorato. Persino i suoi primi ricordi gli sembravano legati al lavoro, e tutta la sua famiglia lavorava, da sempre. Gertrude, per esempio, quando le sue mani non erano indurite dagli incessanti lavori domestici, allora erano gonfie e rosse a causa del bucato. Poi c'era sua sorella, Marian. L'estate prima aveva lavorato in una fabbrica di conserve, e i coltelli per tagliare i pomodori avevano ricoperto di cicatrici le sue belle mani sottili. L'inverno precedente, invece, aveva lasciato nella macchina tagliatrice di una fabbrica di scatole di cartone la punta di due dita. E ricordò com'era duro il palmo delle mani di sua madre, distesa nella bara. Suo padre aveva lavorato fino all'ultimo fievole respiro, e quando era morto le sue mani dovevano essere ricoperte da calli alti quasi un centimetro. Ma le mani di Ruth erano soffici, e lo erano anche quelle di sua madre e quelle dei suoi fratelli. Quest'ultimo pensiero lo sorprese. Era uno spaventoso segno dell'altezza della loro casta e dell'enorme distanza che li separava. Con un'amara risata si accomodò meglio sul letto e finì di togliersi le scarpe. Era un pazzo. Si era lasciato ubriacare dalla faccia di una donna, dalle mani morbide e bianche di una donna. E poi, all'improvviso, davanti ai suoi occhi, sul muro ricoperto di un intonaco sudicio, apparve una visione. Era fermo davanti a un triste caseggiato. Era notte, l'East End di Londra. E davanti a lui c'era Marge, una giovane operaia di 15 anni. L'aveva riaccompagnata a casa dopo una festa in fabbrica. Lei abitava lì, nel triste caseggiato, un posto non adatto neppure a dei maiali. Lui le tese la mano per augurarle la buonanotte e lei allora gli porse le labbra. Ma Marty non voleva baciarla, in qualche modo aveva paura di lei. Poi sentì la mano di Marge afferrare la sua e stringergliela febbrilmente. Sentì i calli sfregare contro i suoi e fu sommerso da un'ondata di pietà. Vide gli occhi affamati e pieni di desiderio della ragazza, la sua malnutrita figura di donna, che era stata gettata dalla fanciullezza in una maturità spaventata e feroce. Allora l'abbracciò con indulgenza, si chinò e la baciò sulle labbra. Risentì nelle orecchie i suoi mugolii di felicità mentre si avvinghiava a lui come un gatto. Povero animaletto affamato. Continuò a fissare la visione di qualche cosa che era accaduto tanto tempo prima. Sentì la pelle accapponarsi, come quella notte quando lei gli si era avvinghiata addosso e il suo cuore si era riempito di pietà. Era una scena grigia, di un grigio oleoso. E anche quella pioggia leggera che cadeva sulle pietre della strada era oleosa. E poi il muro fu illuminato da una gloria splendente. E la faccia di Ruth, pallida, sotto la corona dei capelli d'oro, remota e inaccessibile come una stella, brillò attraverso quella grigia visione. La cancellò. Martin prese il libro di Browning e quello di Swinburne dalla sedia e li baciò. Nonostante tutto lei mi ha detto di ritornare, pensò. Si guardò ancora una volta nello specchio e disse forte, con grande solennità, Martin Eden, per prima cosa, domani mattina vai alla biblioteca pubblica e ti studi un po' di Galateo. Chiaro? Spense la luce a gas, mentre le molle cigolavano sotto il suo corpo. Ma devi smettere di bestemmiare, Martin, ragazzo mio. Ah, devi proprio smettere di bestemmiare, disse ad alta voce. Poi si addormentò e fece dei sogni che per stranezza e audacia potevano competere con quelli dei fumatori d'oppio. Thank you. mattino dopo Martin, svegliandosi, passò dalle rosee scene di un sogno a un'atmosfera umida che puzzava di sapone da bucato e abiti sporchi e che vibrava per gli strepiti e i litigi di una vita tormentata. Mentre usciva dalla sua stanza sentì lo sciabordio dell'acqua, poi un'acuta esclamazione e infine il rumore di uno schiaffo. Era sua sorella che riversava l'irritazione su un membro della sua numerosa progenie. Il grido del bambino lo trapassò come una coltellata. Sentì che tutto ciò, la stessa aria che respirava, era ripugnante, squallido. Com'era diversa, pensò, l'atmosfera di bellezza e riposo della casa dove abitava Ruth. Là tutto era spirituale, qui tutto era materiale, squallidamente materiale. «Vieni qui, Alfred», disse Martin al bambino che piangeva, infilando una mano nella tasca dei pantaloni dove custodiva i soldi, con la stessa noncuranza con la quale viveva la vita. Mise un quarto di dollaro in mano al ragazzino, tenendolo un momento tra le braccia per consolarlo. «Va a comprarti qualche caramella, ma dalla anche ai tuoi fratelli e alle tue sorelle, non dimenticartene, e cerca di comprare quelle che durano di più». Sua sorella sollevò una faccia arrossata dalla tinozza e lo guardò. «Un nichelino bastava», disse. «Sei sempre lo stesso, Martin. Non stai mai attento ai soldi. Quel marmocchio se ne riempirà da star male». «Va tutto bene, sorellina», le rispose allegramente. «I miei soldi si pagano da soli. Se non eri così occupata, quasi ti darei un bacio». Martin desiderava mostrarsi affettuoso con sua sorella, che era buona e che a suo modo gli voleva bene. Ma con il passare degli anni, Gertrude era diventata sempre più imprevedibile, sempre meno se stessa. Il lavoro duro, i molti bambini e i continui rimproveri del marito l'avevano cambiata. Martin pensò, in un lampo di immaginazione, che la natura di Gertrude sembrava diventare sempre più simile a quella delle verdure andate a male, dei puzzolenti saponi per il bucato e dei nichelini, delle monetine sporche di grasso da 10 e da un quarto di dollaro che lei raccoglieva sul bancone del negozio. «Va a fare colazione», Gertrude gli disse bruscamente, anche se dentro di sé era contenta. Nel branco vagabondo dei suoi fratelli, Martin era sempre stato il favorito. «Ti bacerò io, invece», gli disse subito dopo, con il cuore improvvisamente in subbuglio. Si tolse la schiuma gocciolante con il pollice e l'indice, prima da un braccio e poi dall'altro, e lui le abbracciò la vita massiccia e la baciò sulle labbra, rese umide dal vapore. Gli occhi della donna si riempirono di lacrime, ma non tanto per la forza dei sentimenti, quanto per la debolezza causata dal cronico eccesso di lavoro. Lo spinse via, ma Martin riuscì ugualmente a vedere che lei aveva gli occhi umidi. «La tua colazione è nel forno», disse in fretta. «Jim sarà già in piedi. Io ho dovuto alzarmi presto per fare il bucato. Oh, non sarà una giornata divertente, con Tom che se n'è andato e solo Bernard a guidare il carro. Muoviti e vattene». Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it